Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti a Salva Danaio da Deborah Rosciani e ben ritrovati, siamo ancora in diretta 8 agosto e parliamo ancora, ahimè, della crisi economica che ormai è il tema dominante delle nostre discussioni. Una crisi che ha messo tutti di fronte alla necessità di risparmiare su tutti i fronti, anche facendo la spesa e soprattutto in cucina. Gli italiani, complici le ristrettezze economiche a cui sono stati appunto obbligati, hanno cambiato le abitudini di consumo, in molti casi anche ridotto il carrello della spesa. E molti, con grande senso di responsabilità, hanno riorganizzato la gestione e il consumo quotidiano di cibo, riscoprendo l'arte di riutilizzare gli avanzi del giorno prima, riducendo così gli sprechi. Su questo tema una cifra dovrebbe sensibilizzarci tutti. Pensate che ogni anno ogni italiano butta qualcosa come 76 kg di cibo. Basta poco per riutilizzarlo, evitando che finisca nella pattumiera. Quindi attenti, è una cifra davvero clamorosa. E allora, il pane avanzato, con questo si possono preparare bruschette, oppure con le verdure lesse o al vapore del giorno prima si possono farcire torte salate, per non parlare della frutta che soprattutto in questo periodo è molto facile che si deperisca appunto rapidamente. Questa può essere usata per marmellate, macedonie, come ingrediente principe per realizzare gelati fatti in casa, o banalmente la frutta può finire nel frullatore. E allora sono tanti i consigli che vi possiamo dare, ma io credo che siano soprattutto tanti consigli che voi potete dare a noi, appunto, per sensibilizzare chi ancora non l'ha fatto su questo tema, appunto, la lotta allo spreco. Avete mai pensato, quantificato, calcolato quanto cibo si butta via alla fine della giornata? Ed è appunto molto facile che questo accada, soprattutto se ci sono bambini che magari tra l'altro perdono anche l'appetito con il caldo, quindi fanno aprire le merendine e poi le fanno buttare dopo averne morsa appena pochissima, insomma. Ma raccontateci un po' quali sono le nuove abitudini di casa vostra e raccontatecelo all'800 24 00 24. Con noi questa mattina tanti ospiti. Intanto saluto e ringrazio il professor Andrea Segre, che è professore ordinario di politica agraria internazionale comparata all'Università di Bologna, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari all'Università di Bologna, ma soprattutto il fondatore e il presidente di Last Minute Market. Professor Segre, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. È già stato ospite di tante altre nostre trasmissioni. Last Minute Market è, chiamiamolo così, poi lui ci definirà meglio l'attività di questa organizzazione, è un laboratorio d'eccellenza europea per la prevenzione e il recupero appunto degli sprechi. Il professor Segre ha ideato la campagna Un anno contro lo spreco, che ha portato il Parlamento europeo a votare una risoluzione per dimezzare gli sprechi di alimenti entro il 2025. E su questi temi il professor Segre sta facendo un grande lavoro anche con le amministrazioni pubbliche, con le amministrazioni comunali e i sindaci, e poi ci racconterà appunto a che punto è tutto questo gruppo di iniziative. Con noi oggi anche Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Presidente, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Perché il Movimento Difesa del Cittadino, con la testata online frodialimentari.it, hanno realizzato una breve guida al gelato riciclando frutta ed altro, ma naturalmente questo è il pretesto per sollevare nei confronti dell'attenzione pubblica il tema appunto proprio del riciclo dell'alimento, per non buttarlo e per non sprecare appunto sia il cibo che naturalmente poi soprattutto il nostro denaro. E poi saluto e ringrazio Matteo Bellini, chef, cuoco personale, si occupa anche di insegnare come trasformare un semplice avanzo in un piatto prelibato, addirittura organizza lo chef Bellini dei corsi nel nostro paese. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. La metterò a confronto questa mattina con le signore, le massaie, che ci vorranno appunto raccontare invece che cosa si fa in casa loro. Allora, ricordo ancora il numero verde per intervenire in diretta questa mattina, 800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio @radio24.it. Scriveteci anche su Facebook, dove ho già messo appunto l'avviso di questa trasmissione, e chiaramente già in molti hanno cominciato a commentare. Claudia ci scrive per esempio: benissimo l'arte del riciclo, ma cucinare il giusto il giorno prima senza abbondare. Claudia, direi che questo è sicuramente il primo suggerimento di buonsenso da dare, ma io credo appunto che in molti ci siamo riadattati anche a consumare meno e quindi ovviamente ci mettiamo ai fornelli e cuciniamo il giusto, però insomma chi ancora non ha sufficiente sensibilità sull'argomento stamattina lo inviteremo appunto a riorganizzarsi anche mentalmente su questo tema. Prima di tutto questo però, dopo tutta questa chiacchiera, la borsa. Stamattina le borse sono positive, aspettano come sempre qualche dato macroeconomico americano ed è particolarmente vivace la seduta di Milano ma anche quella di Madrid, che guadagnano nella stessa misura tra lo 0,7 e lo 0,8%, più 0,3 punti percentuali invece il guadagno di Parigi, Francoforte e Londra. Milano, tutti gli occhi sono puntati sulle trimestrali, allora è molto piaciuta, è stata molto apprezzata quella di TOTS, il gruppo di Diego Della Valle ha comunicato i suoi risultati ieri sera, il titolo guadagna il 5,31%, è balzato anche di 8 punti questa mattina, poi ha rallentato un pochino il passo. Diego Della Valle tra l'altro ha detto di essere anche fiducioso per il prossimo trimestre, per il prossimo semestre, quindi le vendite di questa azienda vanno molto bene, il settore del lusso d'altronde non ha sentito tanto la crisi come abbiamo più volte ribadito. Unicredit più 2,38%, terza giornata consecutiva di rialzo di oltre 2 punti dopo i conti pubblicati appunto 2 giorni fa, il titolo continua a correre. Mediobanca più 2, Telecom ancora in rimbalzo anche oggi più 1,77%, Intesa San Paolo più 1,75%, Ubibanca più 1,50%, quindi oggi giornata di riscossa per quasi tutte le banche, l'unica eccezione è rappresentata da Monte dei Paschi che perde il 3%. Ieri sera il gruppo ha comunicato i suoi risultati a mercati chiusi con una perdita più forte del previsto, anche se molto inferiore rispetto al 1,5 miliardi di un anno fa. I vertici hanno detto che Fabrizio Viola, Alessandro Profumo, che intendono prendere in considerazione molto seria le indicazioni fornite dalla Commissione Europea, che vuole che appunto l'Istituto Senese riveda il piano di ristrutturazione, però in ogni caso oggi per il titolo c'è questa battuta d'arresto. Per Mediaset lo stesso, meno 1,65, Campari in ribasso dell'1,38%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, guardiamo un po' nel nostro frigorifero e così facciamo un po' un conto. Quanto cibo sprechiamo ogni giorno? Piatti prelibati a costo zero senza sprecare cibo? Un'impresa che i tempi di crisi hanno reso sempre più possibile. Il difficile momento economico ha infatti contribuito a cambiare le abitudini degli italiani, spingendoli a un maggiore risparmio e facendoli scoprire pratiche del passato quasi dimenticate. Innanzitutto, la limitazione degli sprechi alimentari parte prima di arrivare in cucina, per esempio facendo la spesa più frequentemente, comprando quantità più limitate. Oppure optando per alimenti locali e di stagione, andando fisicamente dal produttore, in modo da scegliere quei prodotti che hanno percorso pochi chilometri per arrivare dal campo al piatto. Una volta a casa, è in cucina che si scatena la fantasia nel recupero e nella trasformazione del cibo. Riportare sulle nostre tavole piatti come polpette, frittate o macedonia non sono solo una soluzione per non buttare cibo, ma sono un ottimo aiuto per mantenere vive secolari tradizioni culinarie. Basta infatti poco per preparare polpette recuperando carne macinata avanzata, aggiungendo solamente uova, pane duro e formaggio. Gli spaghetti del giorno prima diventano una frittata di pasta, oppure le verdure non finite, se avvolte nella sfoglia, si trasformano in una pizza rustica. Come suggerisce poi lo stesso nome, per la ribollita usiamo fagioli, cavoli, carote, zucchine, pomodori e bietole già cotti da unire al pane raffermo. Infine, a chiusura del pasto, recuperiamo la frutta in una macedonia, oppure la si può cuocere e diventa marmellata. E se si mangia fuori casa, è possibile limitare gli sprechi anche al ristorante? Su questo fronte, da oltreoceano, hanno qualcosa da insegnarci. È pratica abituale, infatti, negli Stati Uniti, portarsi a casa ciò che rimane del pranzo o della cena nella doggy bag, letteralmente sacchetto del cane, al quale però quegli avanzi non sono destinati. 800 24 00 24, il numero verde per interagire con noi sul tema di questa mattina. Non vi sto neanche a dire quanti messaggi ci stanno arrivando e quante richieste già di intervento telefonico. Professor Segrei, volevo cominciare subito con lei perché ha suscitato grande interesse questa cifra che ho dato all'inizio, questi 76 kg pro capite per anno di cibo sprecato. Nella sostanza il 25% della spesa alimentare che ogni famiglia fa. Come siete arrivati a questo calcolo e avete messo, come dire, come tutte le volte che si parla di medie, evidentemente questa cifra viene fuori anche da un conteggio probabilmente più elaborato che non riguarda solo la famiglia, almeno voglio sperarlo, professor Segre, o non è così? Sì, è così. In realtà abbiamo costituito, proprio per fare chiarezza fra i numeri che si rincorrono e che magari creano anche tensioni e false aspettative, come sempre, poi un osservatorio che si chiama Waste Watcher, una sorta di sentinella dello spreco, all'Università di Bologna con la Sminut Market, avendo come partner SVG, in modo da poter fare delle analisi di tipo qualitativo, peraltro il primo survey, anzi il secondo, lo presenteremo a inizi ottobre, posso fare qualche anticipazione. Grazie. E perché? Perché è molto interessante la cosa, nel senso che noi lo calcoliamo sulla filiera agroalimentare, per la quale abbiamo dei dati certi che sono quelli delle statistiche ufficiali, pensiamo alla produzione agricola che rimane non raccolta sugli alberi piuttosto che in campo, l'industria, anche la ristorazione, soprattutto la grande distribuzione, e siamo intorno, diciamo in totale, lo diciamo in percentuale di PIL, 1,19, 1,20, sono 18 miliardi e mezzo di euro in valore, per non contare poi tutte le risorse che gettiamo via, perché producendo usiamo del suolo, usiamo dell'acqua, usiamo dell'energia. Ecco, la parte più rilevante dove sta? Non sta nella parte commerciale, industriale, lì si cerca di produrre, di vendere, ma c'è, diciamo, un margine di miglioramento, sta a casa nostra, è lo 0,96% di PIL, 15 miliardi di euro in valore, cioè è lì proprio nel nostro frigorifero, nel nostro carrello della spesa, nella nostra cucina che dobbiamo intervenire innanzitutto per prevenire, cioè evitare lo spreco, perché ci costa a noi nel portafoglio ma anche dal punto di vista ambientale, perché si tratta poi di rifiuti che vengono smaltiti, che vengono inceneriti, che dunque inquinano. E allora la parola d'ordine è prevenzione e poi naturalmente recupero, riciclo, certo, cucina degli avanzi, tutto quello, esatto, che professor Segre, certo, sì, che sappiamo fare. No, tra l'altro mi stavo un po' incuriosendo, perché così a pensare ad ognuno di noi, alle nostre abitudini individuali, sicuramente ognuno di noi dice ma no, ma io non spreco niente, sto molto attento, e invece a che cosa dobbiamo fare attenzione? C'è qualcosa di cui magari appunto non a cui non facciamo caso nelle nostre abitudini individuali, a vostro avviso, appunto secondo anche i vostri studi, quali sono le disattenzioni più diffuse quando apriamo il frigorifero e mettiamo appunto il cibo sulla tavola, lo mettiamo in padella per cucinare? Beh, intanto è proprio il frigorifero stesso, strumento straordinario che ha modificato le nostre abitudini alimentari, la conservazione. Noi lo consideriamo uno strumento per stipare e non per conservare, non sappiamo più che ci sono delle temperature diverse, che i prodotti vanno messi in un certo modo, che ci sono le scadenze, quindi vanno ruotati in modo che quello che scade prima, pensiamo allo yogurt, ma tanto altro, non rimanga imboscato da qualche parte. E poi lo stesso carrello della spesa, già nel servizio che avete fatto in apertura è chiaro che la spesa diventa importante, non è che si possa fare ogni giorno, due volte al giorno, però anche quando si va al supermercato, niente di male, per chi lavora soprattutto, e adesso lavorare è particolarmente importante, ecco, l'incetta è sbagliata, il 2x3, il 3x4 ci porta a un sovraacquisto e poi alla fine alla non possibilità di consumare tutto. E la paura poi che ci fa anche l'etichetta, giustamente, non scherziamo sulla sicurezza alimentare, però siamo un po' confusi, pensate solo a quel preferibilmente entro del prodotto secco, la pasta, i biscotti, e molti consumatori, e questo viene fuori dal nostro panel sullo spreco domestico, sono un po' confusi e temono che sia diciamo non consumabile il prodotto oltre la scadenza. In realtà è una scelta essenzialmente commerciale, dove il produttore ti dice guarda, entro quel mese il prodotto è al massimo, è delle al massimo della sua qualità, però certo, verifica prima di buttarlo via, magari apri la scatoletta, la confezione di pasta, se non c'è l'insetto dentro puoi mangiarla tranquillamente. Molto bene, quindi abbiamo già dato delle indicazioni, chiaramente attenzione a quando facciamo la spesa e bene anche alla dispensa, però anche questa che venga fatta con con molta razionalità. Allora, vi leggo già qualche messaggio perché sono già tutti molto interessanti. Selmer ci scrive: sono single, con la crisi ho imparato a farmi il pane a mano, adoro, anche io Selmer, non lo faccio, lo fa mia sorella, glielo rubo sempre, le marmellate. Mi sono organizzato con un piccolo orto, risparmio e mangio più sano. Marisa ci racconta: sono stata su una nave non dico il nome, comunque una tipica nave da crociera, a luglio sono rimasta sconvolta nell'osservare l'enormità di cibo scartata spudoratamente dai croceristi, quindi sono addirittura i turisti, appunto, quindi figuratevi che cosa non succeda nelle cucine di queste strutture. È intollerabile, urge pubblicità progresso. Quindi, professor Segre, le suggerisco anche un altro filone di indagine, se non ci avete pensato a quello delle crociere. Pane, parmigiano, mozzarella, fagioli, prosciutto, aglio, cipolla, carne, non butto nulla, quanto è buono il pane duro nel succo di mango e marmellata di visciole, un altro ascoltatore. E poi c'è chi si complimenta anche per il tema che abbiamo deciso di affrontare questa mattina, che non è proprio ricorrente a Salvadanaio. Più frequentemente Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino, ci occupiamo del carrello della spesa, di come con la crisi le famiglie hanno loro malgrado dovuto cominciare a comporli in maniera diversa, rivolgendosi a strutture che generalmente non sono state, almeno negli anni storicamente, molto apprezzate, gli hard discount, e che invece adesso scoprono appunto un momento di felicità, chiaramente, per il proprio fatturato e per il proprio business. Però insomma anche lì ci sono alimenti di qualità, ne abbiamo parlato tante volte. Lei che cosa ci dice su questo tema, il tema dello spreco alimentare, visto che vi siete inventati anche questa guida al gelato riciclando frutta ed altro? Sì, oltre alla guida al gelato io vorrei sottolineare anche un'altra indicazione che abbiamo dato ai nostri iscritti, ma a tutti coloro che ci seguono, con una serie di indicazioni su come conservare meglio i cibi, soprattutto in settimane, in giorni così caldi come questi. Ecco, tornando indietro al problema generale, io credo che noi associazioni, ma anche le università e i mass media, come bene fate voi, dobbiamo cominciare a porci tre obiettivi: educare alla spesa, educare alla conservazione dei cibi, educare al riciclo del cibo che avanza in qualche modo o comunque insomma che resta dai nostri pranzi e cene quotidiane. Sull'educazione alla spesa bene diceva il single che vi ha scritto, ecco, ciascuno di noi deve imparare, sia che viva da solo sia che viva in coppia, ad adeguare gli acquisti quotidiani o settimanali ai bisogni effettivi. Spesso compriamo più del necessario e dobbiamo anche imparare a tener conto delle scadenze. Giustamente il professore prima sottolineava la differenza tra i termini minimi di conservazione e i consigli per consumare entro. Certo, lo yogurt per esempio ha una scadenza, l'olio extravergine d'oliva sì, entro preferibilmente, ma se lo consumiamo qualche mese dopo non succede nulla. Quindi educare alla spesa, educare alla conservazione, stare attenti ai frigoriferi, una stella, due stelle, tre stelle, il reparto di surgelazione, a stare attenti anche quando si fa la spesa e si porta a casa, quindi se abbiamo delle borse frigorifero utilizziamole, scriviamo sul cibo che conserviamo nel freezer la data di acquisto per orientarci poi nella consumazione, infine educare al riciclo. Noi abbiamo fatto questa guida che è molto semplice, che si trova sul sito www.mbc.it. L'abbiamo messa anche sul nostro profilo Facebook, Presidente, così almeno per tutti. Per trovare frutta, verdura, diciamo, utilizzarla utilmente. Prima è stata citata una gloria della cucina napoletana, soprattutto la frittata di pasta. Io sono stato a Ischia nei giorni scorsi. Ho fatto la scorpacciata. Di queste frittate. Quindi diciamo, ecco, se ci educhiamo bene a spendere, a conservare, a riciclare, non solo faremo del bene al nostro portafoglio, ma anche un po' al sistema Italia. Esattamente, è una questione anche educativa. Adesso voglio andare a caccia di idee, grazie allo chef Matteo Bellini, ma prima vorrei sentire anche un'ascoltatrice, quindi cominciare subito ad ascoltare l'idea dei nostri ascoltatori sui temi di questa mattina, ma soprattutto le abitudini casalinghe. Rita da Lodi, buongiorno, benvenuta all'800240. 0024. Buongiorno Deborah. Ci dica. Ascolti, io inizialmente ho chiamato e ho fatto una riflessione sugli acquisti, vale a dire, io avevo una famiglia di 6 persone che nel tempo fortunatamente è diminuita. E quindi li ha sbattuti fuori di casa, Rita? No, se ne sono andati. Sono sposati. Però, cioè, ogni tanto tornano e ovviamente non sono certo più soli. Però il discorso è questo, che ero orientata alle le grandi confezioni. Oggi ti propinano sempre le grandi confezioni, perché è lì che si crede di avere risparmio. Quindi, tra virgolette, sei un po' condizionato. Poi riflettendo, e quindi a questo dubbio mi avete già risposto, poi riflettendo mi è venuta in mente un'altra cosa, Debora, la quantità di spreco, ma non siamo aiutati a dare questo cibo in più a quelli che hanno bisogno. Eh no, guardi, in realtà questa è questo è stato proprio lo spirito che ha fatto partire il professor Segre con tutte le sue iniziative. Last Minute Market ha anche questo obiettivo, quello di redistribuire i cibi in eccedenza. Poi ci faremo raccontare come fa, Rita. Però è vero, in realtà qualche volta banalmente magari basta rivolgersi, come dire, alla Caritas della propria città per chiedere se hanno bisogno, ma non è detto che accettino in realtà il cibo in eccedenza della nostra casa. In genere quello che arriva a queste strutture che si occupano delle persone in difficoltà è qualcosa di più strutturato, per cui Rita effettivamente ha ragione, forse ne abbiamo parlato anche in altre trasmissioni. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande. Chef Bellini, nel mio frigorifero, io domani vado in ferie, quindi questa settimana ho consumato tutto quello che c'era, mi sono assolutamente obbligata a non andare al supermercato, mi è rimasta una ricottina, che cosa ci faccio stasera? Beh, una ricottina, un'idea interessante per fare un antipastino che mi viene in mente così al volo potrebbe essere di amalgamarla con un po' di formaggio più stagionato e poi fare creare delle palline lavorandola tra i palmi e le mani e passarla nelle spezie o in alcuni semi tipo i semi di zucca, girasole o ancora mandorle a scaglie eccetera e creare degli antipastini a base di formaggio. Ecco qua, e quindi mi toccherà pure invitare qualcuno, va a finire, oltre che a gustarmela da sola, appunto la ricottina così rielaborata. Chef, grazie. Un aperitivo prima delle vacanze. Ottimo, grazie. Allora, tra un po' parleremo anche della sua iniziativa, che si chiama quasi come quella del professor Segre, Zero Sprechi, è una rubrica in cui lo chef Matteo Bellini spiega come trasformare un semplice rimasuglio in un piatto prelibato. Lo chef Bellini fa anche dei corsi in tutta Italia, vi racconteremo appunto come raggiungerlo a tra poco. Il conto, per favore. Allora, abbiamo due rigatoni, uno zuppone, due porzioni a vacchio, una porpetta, mezzo vino. Buonasera. Buonasera, architetto. Siamo in otto, c'è posto? Per lei sempre, dottore. Uniamo sti due tavoli. Io ci vengo spessissimo. Rustico ma genuino. Vedrà come si mangia, mia cara. Qui si ritrovano antichi sapori che sembravano dimenticati. Così sono le piole su da noi. Oh, it's wonderful, I like, mi piace. Sono già venuto qui con l'amico Indro Montanelli l'ultima volta che è venuto a Roma. Ah, con Indro? Come no, ha detto che ci scriverà un articolo. Con quella penna può scrivere quello che vuole. Ah, no, neppure il tulare. I'll be in New York next week for two days. Tu. You like my little dog, avvocato? Mia testa, va bene? Mariale? Grazie. Ecco gli ordini, architetto, che gli facciamo stasera? Per cominciare direi zuppone alla porcara per tutti. Otto porcare speciali. E vino della casa. No, è tutto della casa. Zuppone alla porcara? Un minestrone assai sofisticato ma delicato. Chef Bellini, lo zuppone alla porcara lo conosceva? No, non lo conoscevo. Eccoci qua, un super minestrone da quello che ho capito. Questo era un episodio che si chiama Osteria, tratto dal film I Nuovi Mostri dell'87, appunto, diretto da Dino Risi, Mario Monicelli ed Ettore Scola. Allora, tra l'altro, chef Bellini, poi vado di nuovo al professor Segre, ma mi incuriosiva questo aspetto, ma dentro i ristoranti si spreca, perché noi stiamo facendo tutta questa campagna anche con l'aiuto vostro per sensibilizzare le famiglie, ma se poi nei ristoranti tutto questo discorso non viene seguito, buttate via tanto. Che cosa succede appunto in quelle stanze segrete? Dove tra l'altro grazie ai reality adesso entriamo molto di più rispetto al passato e vediamo anche quello che combinate, no? Grazie a tante trasmissioni su questo tema. Ma siete attenti lì dentro? Diciamo che sì, soprattutto negli ultimi anni e soprattutto nei ristoranti più di livello c'è un'attenzione molto maggiore, si cerca di riutilizzare anche dei prodotti che per tradizione contadina venivano utilizzati e che poi sono stati persi perché erano visti come prodotti di minore qualità, invece sono assolutamente eccellenti come interiora di animali che una volta venivano sprecate, adesso invece sono molto più utilizzate e comunque c'è meno spreco anche di tutti i classici ingredienti perché vengono riutilizzati per creare antipastini di benvenuto e quant'altro. Certo, ottimo, e questo è quindi quando li vediamo antipastini appunto gustosi e particolari entrando in un ristorante, sappiate che molto spesso appunto questi derivano dall'utilizzo di buonsenso delle cibo appunto dentro le cucine. Sentiamo cosa fa Cristina da Venezia. 800 24 00 24, come usa lo yogurt che scade, Cristina? Cristina Sassi ha inventato una cosa. Lo yogurt deve essere assolutamente naturale. Quindi non quella alla fragola, ecco, possibilmente senza pezzi di frutta dentro. Bravissima. Ecco. Quello che si compra, io lo compro chilometri zero. Dopodiché, nel momento in cui è scaduto, passano 3 o 4 giorni, si applica nei capelli, gli si fa un'ottima maschera e i capelli riusciranno meravigliosamente lucidi. Ah, ecco qua. Allora, beh, adesso dovremmo provarci, Barbara Bianchi, lo dico anche a lei, che è la mia assistente di questi giorni. Abbiamo saputo una cosa nuova, non si finisce davvero mai di imparare. Qua stiamo celebrando quasi il decennale di Salvadanaio condotto da me e lo yogurt sui capelli non ci avevo mai pensato. Grazie a Cristina, purché però sia a chilometro zero. Professor Segre, le chiedo di rispondere invece alla osservazione che ha fatto l'ascoltatrice precedente, quando dice, anche se tutti fossimo sensibili al 100% al tema dell'utilizzo consapevole delle eccedenze alimentari, qualche volta anche noi piccoli nelle famiglie non sappiamo cosa fare e dove andare. Voi con Last Minute Market ci ricorda che cosa fate esattamente? Sì, è un mercato dell'ultimo minuto dove in realtà non c'è più il prezzo del bene, del prodotto che sta per scadere, che non si vende più, anzi c'è un costo perché lo devi smaltire e ti costa, oltre a inquinare. Allora abbiamo messo in piedi un sistema molto veloce per l'appunto l'ultimo minuto, prima della scadenza, prima che questo venga gettato via, lo recuperiamo e lo doniamo. È un motore molto importante il dono, non c'è più il prezzo, non c'è più il mercato, è uno scambio gratuito a chi ha bisogno. E la cosa paradossale, però, abbiamo iniziato alla fine degli anni 90 a studiare e poi applicare questo sistema, questo metodo, e che è come se il mondo andasse avanti su due binari paralleli, cioè da allora sono aumentati gli sprechi, le perdite. Non è un problema dell'Italia, è un problema mondiale come della globalizzazione. Dimostrano i dati della FAO. Ecco, nei paesi in via di sviluppo è un po' più a monte, più verso, diciamo, la produzione, la trasformazione da una parte, e dall'altra parte sono aumentati quei consumatori, io li chiamo senza potere d'acquisto, in realtà sono poveri, indigenti, esclusi, che potrebbero consumare quei beni. Ecco, noi abbiamo fatto un po' la traversina fra questi due rotaie che corrono velocemente in modo parallelo, però ci siamo resi conto che da un lato questo recupero è una goccia in un mare gigantesco, non riusciremo mai a recuperare tutto, e dall'altro che bisogna appunto prevenire, cioè ridurre gli sprechi, perché è un'inefficienza del mercato, del sistema, facciamolo funzionare meglio. Però per darvi un esempio, ecco, infatti, perché è quello che interessa gli ascoltatori, da un supermercato, da un ipermercato, 6.000 metri quadrati dove andiamo a fare la spesa, si possono recuperare, quello che noi facciamo, anche 100 tonnellate di cibo perfettamente consumabile in un anno. Il fatto che si recuperi lì è perché si trova di tutto, e questo permette di soddisfare le esigenze alimentari con quello che si recupera di 300-400 persone al giorno. Ecco, dove le trovate queste persone da sostenere, professor Segre? Perché questo poi interessa i nostri ascoltatori. Sono enti caritativi, certo, che già che hanno, devono avere una cucina, devono essere onlus e che stanno attorno al luogo di recupero. Cioè il senso è non recuperare, per dire, a Bologna e porti alla mensa della Caritas a Modena, perché il trasporto, la conservazione poi costerebbe di più rispetto al recupero. Quindi è molto veloce ed è sostenibile proprio per questo, ma si può fare solo, diciamo, nelle strutture commerciali, mettendo in legame con enti caritativi. A casa tutto ciò che gettiamo via non si può recuperare, per questo che abbiamo lanciato la campagna europea, perché la parola d'ordine, dicevo prima, è prevenzione. Lì non si recupera, lì va tutto nel rifiuto, sul quale peraltro ci paghiamo pure le tasse, esattamente, le tariffe. Perché poi le città devono organizzarsi con la raccolta dell'umido e tutto quanto, che peraltro è anche sempre fastidioso, come dire, organizzarlo, perché puzza anche in casa, insomma ci sono tanti problemi, per cui è chiaramente quel sacchettino lì tutto ecologico, se lo riempissimo di meno sarebbe molto meglio. Professor Segre, le faccio sentire quello che ci dice Marisa da Treviso, perché lei in via individuale, appunto, adesso ce lo facciamo raccontare direttamente da lei, cerca di organizzarsi con i supermercati per aiutare appunto delle famiglie bisognose, però in via individuale, da quello che capisco, non è facile farlo. Marisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io sono una volontaria, faccio parte di due onlus, neanche una, e ci siamo attivati con i vari supermercati. E alla sera, quando loro chiudono, hanno un'enormità di vassoi di tutte le qualità che puntualmente buttano, certo, via. Allora io ho chiesto se era possibile aspettare la chiusura ed andare con dei volontari e portare via il tutto. E loro hanno detto assolutamente no, devono solo unicamente buttare nel cassonetto. Mm. Non possono prendersi appunto la responsabilità di redistribuirlo in altra maniera. Marisa, sentiamo il professor Segre se conosce questa dinamica. Ma certo che la conosco, nel senso che noi abbiamo risolto questo problema, però qui bisogna dirlo, cioè non è che tu vai dal supermercato come privato e ti dà la roba. Allora, noi i progetti attivi di recupero con questo sistema soltanto nei supermercati mercati in Italia sono 52, quindi si può fare, però bisogna farlo in modo professionale, nel senso che qui c'è la sicurezza alimentare. Allora noi costruiamo una rete e facciamo alcune operazioni importanti con gli ipermercati, formiamo i loro addetti, modifichiamo i manuali di autocontrollo igienico-sanitario. Ecco, la signora forse magari su questo tema non è così ferrata, perché altrimenti ti dicono non si può fare, perché rischi tanto, c'è la salute di chi poi diciamo riceve il prodotto. E creiamo il collegamento velocissimo, è un progetto di logistica di fatto, con chi ha bisogno, ma ci sono spostamenti di pochi metri, di poche centinaia di metri talvolta, però c'è tutta la parte fiscale, va bene regalare il prodotto, però devo recuperare l'IVA e c'è ovviamente tutta la logistica che deve essere organizzata e funzionare come un orologio. Io ho tantissime richieste purtroppo, perché quello che vede la signora diciamo nel retro di un ipermercato lo vedono tutti, questi bidoni pieni di cose ancora buono, però per recuperarle bisogna farlo in modo, ecco, dire scientifico, forse esagerato, però molto professionale perché altrimenti, esatto. Altrimenti il rischio è che avveleni qualcuno e allora diciamo quel beneficio si perde totalmente. Questo noi l'abbiamo addirittura, per farlo abbiamo costituito una società vera e propria dell'Università di Bologna che si chiama appunto Last Minute Market. Allora, poi andremo anche alla vostra iniziativa, che ormai è qualcosa di più che un progetto, carta a spreco zero per le amministrazioni, la firma appunto, la sottoscrizione di questa carta da parte di molti sindaci, ne parleremo tra un attimo. Adesso vi leggo qualche messaggio e poi sentiremo anche altri ascoltatori. Ho imparato a non sprecare, ci racconta un ascoltatore, quando ho visto la madre di un'amica fare una cosa tremenda, raccogliere il condimento dell'insalata e riutilizzarlo per un'altra insalata. E vabbè, se a loro piace, che male c'è, però non so quanto sia effettivamente qualitativamente buono. In una nota catena di pizzerie, le pizze esposte per più di 30 minuti e non vendute vengono buttate, nemmeno i dipendenti del punto vendita possono portarsele a casa. Mi rendo conto che vedere tutto questo appunto fa innervosire parecchio. Un altro ascoltatore che volevo leggere, adesso non lo ritrovo ma magari lo ripeschiamo al volo. Chef Bellini, ho una domanda per lei da parte di Ottavio da Piacenza. Ottavio, buongiorno, ci dica. Buongiorno Deborah, sei molto simpatica, forse sarà anche bella. Guarda, io ho un problema. Ho del burro... Sono solo una mangiona però, Ottavio, questo glielo posso assicurare, che a casa mia non spreco niente. La dieta è bandita. Benissimo. Ho piacere. Ci dica. Io ti ascolto tutti i giorni. Grazie. Allora, dunque, qual è il tema? Io ho del burro che va in scadenza fra due mesi. Sì. Sono sul gelo, cosa succede? Ottavio, non riesce a consumarlo perché è un bel panetto di quelli da mezzo chilo che lei ha detto, insomma, in estate tutto sto burro non ce lo mangiamo. Giusto? Se lo surgelo cosa succede? Chef Bellini, è una bestemmia il burro da surgelare oppure insomma si può fare, chiudiamo un occhio e... Allora in un ristorante chiaramente non si può fare perché l'etichetta verrebbe controllata e non è il caso. A casa ci sono moltissime persone, soprattutto che poi seguono, che vengono anche ai miei corsi con le quali parlo, che lo fanno abitualmente e non ci sono problemi, insomma. L'importante è che venga magari congelato in monoporzioni, in modo che poi non venga riscongelato. Esatto, e bravissimo, nuovamente. Bravissimo, infatti. Però anche lì, insomma, Ottavio, perché non se ne è preso un panetto un po' più piccolino. Zero sprechi, Matteo Bellini, come funziona? Funziona che assieme alla mia socia Chiara Bassi abbiamo messo in piedi un magazine online e lì inserisco mensilmente dei menu, tra i quali anche i menu zero sprechi, e in modo che la gente che spesso mi chiede, soprattutto nei social network dove sono molto attivo, come riutilizzare i vari prodotti, possa prendere spunto e evitare di buttare cibo che, soprattutto in un periodo storico come questo, è una cosa da non fare assolutamente. Ecco, ma lei che gira l'Italia e appunto adesso anima anche questa iniziativa sul web, che tipo di sensibilità trovate intorno all'argomento? Oppure ci sono ancora tante disattenzioni che pure lei non si aspetta? Ma ci sono, diciamo, ancora delle disattenzioni, però l'utenza, soprattutto quella media che un tempo non era attenta a queste cose, è molto interessata, mi richiedono vari tipi di corso, tra cui quelli lì appunto per il riciclo dei prodotti che sono stati avanzati. Sentivo prima l'ascoltatore che vi aveva scritto il messaggio per il pane, moltissimi mi chiedono corsi sulla panificazione, perché un pane comunque fatto come una volta dura molti più giorni ed è buonissimo, quindi, mamma, cioè, mi state facendo venire l'acquolina in bocca, altro che sensibilità sullo spreco, mi sta gocciolando appunto la saliva dalla bocca stamattina, chef. E quindi ecco, altri suggerimenti di buonsenso ai quali magari, ecco, abitualmente non siamo, come dire, così veloci a pensarci, chef? Ma io dico sempre all'inizio dei corsi sul riciclo, come dicevate prima, di cercare di non prendere assolutamente troppi prodotti, perché spesso si è invogliati da promozioni anche 3x2 o promozioni simili, e queste cose poi magari rimangono lì e vengono sprecate. Per quanto riguarda possibilità di riutilizzare varie cose, c'è sempre da dire appunto che ad esempio, non lo so, una vellutata di verdura può essere riutilizzata come base di un risotto, oppure, come sentivo prima nell'intervento che è stato fatto, la pasta, per farci delle frittate di pasta da portare soprattutto adesso al mare o nei picnic. Infatti, si possono riutilizzare moltissimi prodotti ed è giusto farlo. Un'ultima, adesso devo andare ai suggerimenti perché in viaggio, poi abbiamo ancora 10 minuti, ma questa gliela devo chiedere, chef. Mia nonna, ci scrive un ascoltatore, condiva l'insalata con l'olio del tonno o quello dei funghi. Allora, io adesso, senza arrivare a tanto, in realtà se mi preparo l'insalata di tonno e pomodori, è chiaro che lascio quell'olio lì, non è che butto quell'olio poi ci metto quello di oliva, la qualità forse è leggermente diversa, ma è proprio, come dire, una cosa molto peccaminosa dal punto di vista dello chef? Peccaminosa no, dipende sempre dalla qualità del prodotto, certo. Perché soprattutto i prodotti conservati di scarsa qualità, chiaramente per quei prodotti lì viene utilizzato un olio che va bene per l'alimentazione umana, però non sarebbe il top da utilizzare, diciamo. Che in un paese come il nostro, che produce un olio extravergine di oliva eccezionale, però sa, quel tantino lì che condisce appunto l'olio è anche un peccato, però doverlo buttare per rimpinguare l'ala. Vabbè, comunque, insomma, abbiamo capito come la pensa. Intanto le dico, adesso sentiamo cosa succede sulle strade italiane, che Elena Lavarese ci chiede aiuto perché ha dei cetrioli giganti nell'orto, vuole sapere come li può utilizzare per non buttarli. Sicuramente se ne ha tanti, intanto regalarli anche a qualche amico che apprezza questo appunto ortaggio da mettere nelle insalate. Allora, volevo rispondere a Serena, che ci fa i complimenti per il programma e chiede se siamo ancora interattivi su Twitter come Salva Danaio. Un po' meno su Twitter, Serena, perché qua siamo in molti in ferie. Marco Lombardo, che è il mio collaboratore, che si occupa fondamentalmente appunto di questo network, in questi giorni riusciamo ad, come dire, interagire un po' meno, però ci siamo e sicuramente ritorneremo operativi al 200% entro un paio di settimane dopo Ferragosto. Detto questo, Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino, non mi sono dimenticata di lei, le volevo chiedere, insomma, quali conclusioni è arrivato dopo aver sentito anche le varie testimonianze dei nostri ascoltatori. Sicuramente come associazione, no, tra l'altro volevo prendere a spunto un ascoltatore che scrive: ma cos'è un programma di cucina, che fine ha fatto Salva Danaio, ma perché i nostri soldi non finiscono in prevalenza nel carrello della spesa? Presidente Longo. No, assolutamente, non stiamo facendo una trasmissione di ricette di cucina, ce ne sono già tante, forse troppe in televisione. Stiamo facendo un'azione di sensibilizzazione invece collettiva su un tema importante, che è quello dello spreco alimentare. Io credo che a tutti noi sia capitato di vedere, soprattutto nelle grandi città, delle persone, magari anziane, che frugano nei cassonetti alla ricerca di qualcosa da utilizzare, spesso anche di qualcosa da mangiare. Quindi non è un problema da affrontare con leggerezza, e mi veniva da lanciare un'idea: come ci sono i gruppi di acquisto solidale, decine, centinaia di famiglie che si mettono insieme per comprare, forse potremmo lanciare anche, oltre alle idee delle piattaforme benemerite di cui si è già parlato a Bologna, ma ci sono anche in Germania, un po' in tutta Europa, e c'è addirittura l'anno della lotta contro lo spreco alimentare che la Commissione Europea ha lanciato, credo che potremmo forse cominciare a pensare a gruppi di riciclo solidale del cibo, qualcosa del genere. Organizziamoci, soprattutto chi gestisce mense collettive, mense scolastiche, mense aziendali. Ecco, non bisogna più sprecare una sola briciola di pane. Una volta in tutte le famiglie questo, come dire, era una, un'osservanza quasi religiosa, conservare il cibo. Adesso che viviamo meglio, ma abbiamo problemi di crisi economica, ma è anche un problema di consapevolezza e di educazione a un consumo sostenibile, dobbiamo affrontare anche seriamente il problema dello spreco di cibo. Allora, intanto altre testimonianze su persone che hanno lavorato in passato, lavorano ancora nella ristorazione, dove purtroppo invece la quantità di cibo che viene buttato quotidianamente è ancora troppo elevato secondo i nostri gusti. Serena ci racconta: nel ristorante dove lavoravo veniva buttato moltissimo cibo, soprattutto la sera, padelle piene di pasta in tonza. Per fortuna che c'era un signore che prendeva quella pasta per gli animali, e quindi anche qui forse un altro modo effettivamente per riutilizzare lo scarto o le eccedenze, chiamiamolo come vogliamo. Professor Segre, la carta spreco zero, sottoscritta fino adesso da oltre 700 sindaci italiani ed europei, che cos'è? Beh, nasce proprio dalla risoluzione del Parlamento europeo che abbiamo promosso nel 2010, portando in Parlamento una dichiarazione contro lo spreco firmata da tante personalità, e che chiede, quella su nostro input diciamo, l'istituzione nel 2014 dell'anno europeo di lotta allo spreco, ma la decisione deve essere ancora presa dalla commissione esecutiva, quella di Barroso. Allora, nel frattempo, visto che vogliamo essere, diciamo, fare le cose lentamente ma non troppo, e tante cose si possono fare, cosa abbiamo fatto? Tradotto la risoluzione sintetizzata, tradotto in italiano, del resto una lingua comunitaria, adattata alle nostre amministrazioni comunali, che sono quelle diciamo intermediarie fra noi, lo Stato e l'Unione Europea, chiedendo ai sindaci di mettere in pratica le cose che sono scritte nella risoluzione e che si possono fare a costo zero. Per questo l'abbiamo chiamata carta per l'amministrazione a spreco zero, che è un obiettivo, è ovvio che gli sprechi non potranno essere azzerati, però bisogna andare in quella direzione. E in realtà l'ultimo punto, ormai sono 700 i sindaci che hanno firmato, è sostanzialmente questo: copiamoci, scambiamoci gratuitamente le buone pratiche. È pieno di esempi concreti, di progetti, oltre alla Smart Market ce ne sono tantissimi altri, non solo sul cibo, che portano alla riduzione degli sprechi, ma non solo cibo, anche acqua, energia, rifiuti, mobilità. Ecco, perché non farlo? E quindi noi adesso al 28 di settembre a Trieste, dove c'è Next, il festival dell'innovazione tecnologica e scientifica a livello europeo che ci ha ospitato per lanciare la carta, premieremo le amministrazioni che fanno diciamo buone pratiche, in modo che si costituisca una sorta di repertorio, di database, dove ognuno può andare a attingere e copiare, magari citando la fonte, i progetti che funzionano. Certo. Se abbiamo attivato la Smart Market per dire a Bologna e ci abbiamo messo 3 anni, perché non è una cosa semplice, con dei costi anche dei tempi, perché non attivare lo stesso progetto nelle altre città italiane? Nelle altre città, risparmiando tempo e denaro, e ripeto, ci sono tanti bei progetti in questo paese. Ecco, ma questi progetti, esatto, professor Segre, voi adesso vi siete mossi con la grande distribuzione, ma con il mondo della ristorazione, visto che a quanto pare questa è la frontiera più dirompente per quello che riguarda lo spreco? Assolutamente sì, noi recuperiamo intanto dalle mense scolastiche, poi addirittura dalle mense degli ospedali, il pasto cotto non consumato, quindi non parliamo di avanzi, ma di eccessi di produzione. Faccio un esempio: a Bologna c'è il centro di cottura degli ospedali, 5.000 pasti al giorno, se ne sprecano 50-100 al giorno, è pochissimo, vuol dire che lavorano bene, però quei 50-100 al giorno moltiplicati per 3,5 euro, 5 euro, significa 90-100.000 euro che finiscono nel bidone della spazzatura. Ecco, quindi vale la pena recuperare, però cercare che fare in modo che quell'eccesso si riduca, perché sono comunque costi. Quindi questa è un po' la filosofia dello spreco zero. Molto bene. Ridurre, soprattutto prevenire. Allora, un altro paio di testimonianze, poi andiamo verso la chiusura con lo chef Bellini. Abbiamo tenuto in sospeso ancora le ricette con i cetrioli, ma ne abbiamo altre di richieste per lei. Sentiamo Francesco da Pistoia, che ritorna peraltro sul tema della ristorazione. Rapido, Francesco, grazie. Lei fa il cuoco, tra l'altro. Esatto, fu l'oste da 50 anni, buongiorno a tutti. L'oste, fantastico. Oste, fu l'oste, non lo chef, io sono l'oste di una volta. Allora, per me la parola riciclare la roba non esiste, è quasi un'offesa per i prodotti che si deve adoperare, perché sono talmente, è talmente tanto buono un pezzo di lessa avanzato da ieri sera, va bene? Certo. Oggi tagliata a fettine fine fine. Quindi bisogna cambiare nome, cambiare nome e rendere l'avanzo più nobile anche nel termine della definizione. Ma è un'offesa, poi c'è talmente tante belle cose da poter anche spendere poco, un piccolissimo orto, un piccolissimo terrazzino ti viene un sacco di quella roba che tu c'hai, il basilico, guardi, facciamo finta di fare una rosta e usiamo la salvia rosmarino, va bene? Tutte le volte si compra la salvia rosmarino in buste e tutte le volte si siano messe in frigorifero e quando si apre è sempre vecchio. Costa avere una piantina di salvia rosmarino sul terrazzo. Guardi, come faccio ad avere il mio balconcino microscopico, Francesco? Comunque grazie, ci penserò e magari la chiamo, così mi dà anche delle buone indicazioni per coltivare. Un giorno faremo una puntata appunto sull'orto, sui nostri microscopici balconi di Milano. Grazie Francesco, rapidissimo Cesare da Modena. Buongiorno, sono Cesare. Chiedevo, a me capita di fare dei dolci a volte e purtroppo si fanno con gli albumi e con i tuorli e gli albumi e rimangono lì. Purtroppo rimangono e bisogna buttarli. Alla fine mi chiedevo al vostro chef Bellini come si può usare. Grazie Cesare, lo sa che c'è una dieta particolare, la famosa dieta zona, che in realtà fa il contrario: la mattina consiglia per la colazione, per la componente proteica, di cucinare solamente gli albumi delle uova e buttare invece i tuorli, i rossi. Qua insomma non si sa più come ci si deve comportare con queste uova. Chef Bellini, la chiusura della trasmissione, 3 minuti e mezzo, è tutta per lei. Da cosa cominciamo? Dagli albumi? Eccoci, allora cominciamo dagli albumi. Con gli albumi, al di là delle classiche meringhe, si possono fare anche altre già le meringhe, tipologie. Sì. La meringa, sì, non ci avevo pensato. Si possono fare anche altre tipologie di dolci, come le lingue di gatto, che sono un dolce tipico, diciamo, leggero, ma si possono anche preparare dei dolcetti al cocco mescolando semplicemente gli albumi con la farina di cocco. E li sapevo pure fare. E poi cucinandoli in forno, quindi ci sono molteplici modi per riutilizzarli. Invece per quanto riguarda i cetrioli che chiedeva l'amica di prima, diciamo, si può realizzare una specie di gazpacho frullandoli assieme ai peperoni, pomodori, tutti i prodotti di stagione, mettendolo in frigo o addirittura in freezer, e va servito freddissimo assieme a del pane bruschettato, quindi per avere una preparazione proprio estiva. Chef, dobbiamo inventarci un reality sul tema appunto del riutilizzo di ciò che è in eccesso. Ecco, non li dobbiamo chiamare. È d'accordo con quello che diceva l'ascoltatore, non chiamiamoli avanzi, è pur sempre cibo che non abbiamo consumato perché ne abbiamo cucinato troppo. Assolutamente, penso che comunque la parola riciclo non fosse detta in modo offensivo, ma fosse appunto un rafforzativo per far capire che è giusto riutilizzare ingredienti principe dell'italianità. Allora, ancora un paio di minuti, anche meno, prima di concludere. Professor Segre, volevo ritornare da lei con tutta la sua filosofia sul vivere a spreco zero. Quali altre iniziative avete in questo momento in testa e prima o poi le concretizzerete? Beh, l'iniziativa è quella di estendere la riduzione degli sprechi, delle perdite, delle inefficienze ad altri campi. Il cibo è il primo, naturalmente. Il cibo è un nostro bisogno primario e dobbiamo soddisfarlo. È un peccato in tutti i sensi gettare via qualcosa che è ancora buono, considerando che abbiamo usato delle risorse non soltanto economiche ma anche naturali per produrre, trasformare, distribuire, non consumare, poi distruggere, e dico il suolo, l'acqua, l'energia. E quindi ecco i passi successivi: l'acqua, l'energia, la mobilità, i rifiuti. E sempre in quest'ottica prevenire invece di usare le R, comprese quelle del riciclo, del recupero, del riuso, vanno tutte bene, però è la prevenzione la nostra, diciamo, salvaguardia rispetto al futuro, perché poi in realtà qual è l'obiettivo finale, al di là dell'utopia della riduzione a zero degli sprechi? È quello di vedere un orizzonte, per questo l'utopia è bella, perché intanto lo vedi, sai che gli puoi diminuire e cammini, fai dei passi in quella direzione, poi l'orizzonte si sposta naturalmente e fai altri passi. Intanto cosa sta succedendo? Ha iniziato un cammino. Molto e la bene. Crisi, che poi è l'inizio della vostra trasmissione, il punto di partenza, in questo almeno ci aiuta. Grazie al professor Andrea Segrea, ad Antonio Longo del Movimento Difesa del Cittadino, allo chef Matteo Bellini, un ascoltatore, Luigi segnala il sito www.vivalafocaccia.com che Andrea andremo subito a visitare adesso. Intanto grazie a tutti per essere stati con noi. Noi stasera ci risentiamo anche a Focus Economia alle 17. Buona giornata.